Lupo Nair, Summersburgo. Benvenuti al nono episodio di Lupo Nair Summersburgo, l'edizione estiva di Lupo Nair, il braccio armato di Lupi in Aria, che è il programma radio che va in onda ogni giovedì dalle 21 alle 22 su Radio R, ma in questo caso no, vado in onda dal tinello di casa mia, che sono Vanni, e con la voce di Flammi che ci saluta dall'inizio. Ciao Flammi, noi con la trasmissione torneremo a metà settembre, nel frattempo abbiamo ancora qualche settimana di Lupo Nair Summersburgo e abbiamo iniziato questa puntata con il nuovo singolo di XTR Human, un tipo di berlinese, Johannes Stabel, che si diverte a fare IBM ignorantissima e molto veloce, technobody music, possiamo chiamarla così. Sledgehammer era il titolo del brano XTR Human, e ora passiamo al metallo africano, vero black metal. Post black metal si definiscono comunque sia. Chiaramente parlano di mitologia e misticismo africano. Loro sono i Chovu di Nairobi, Kenya. È strano, sì, perché fondamentalmente non è un mondo dove si sviluppa molto il metal estremo, tuttavia qualche esempio esce fuori, come il caso di questo brano, di quelli che aspetta, mi sono perso la cartella, ma adesso lo trovo, adesso lo trovo, ragazzi, perché clicco dove c'è un bambino, ecco qua, Nyakati Zadahabu, questo è il titolo del brano di Chovu che ascoltiamo adesso. Sammersburgo. schönes Gesicht. Ich liebe dich in ein Augenblick. È tornato Bill Lieb. Bill Lieb è il musicista austro-canadese che è il frontman dei Frontline Assembly dall'inizio della loro carriera, dal 1984 circa. Si è messo un attimo in proprio, ha fatto un singolo che è questo Neuromotive. Il singolo, l'album si chiama Machine Vision, questo è il remix Neuromotive Sergile One, remixato da Rhys Fulber, che è il suo collega nei Frontline Assembly. Bella pensata, cioè vado, mi metto in proprio e mi faccio remixare il pezzo da comunque quello là che stava nel gruppo prima, ma perché? Vabbè. Effettivamente è un po' fatica a trovare differenze, ma comunque sia Bill Lieb gli si vuole bene, come Rhys Fulber d'altronde, quindi a posto così. Ora passiamo a sentire qualcosa invece di più giovani, proprio un'altra collaborazione, ma di giovani. Si tratta di due giovincelle, una risponde al nome di Ok Lou, però si chiama Lou veramente? Boh, sai come si chiama? No, si chiama Mary Lou, per gli amici. Ok Lou, Mary Lou Vanina Maniel, francese di Poitiers, ha pubblicato un album intitolato Choke Enough, che roba pop etereo, diciamo, e c'è questo singolo che ha fatto insieme ad Underscores, che è un'altra musicista americana, però che fa della scena hyper pop, diciamo, robette fastidiose fondamentalmente, e insieme hanno fatto questo singolo chiamato Harvest Sky, che mi è capitato di ascoltare una serata in Germania. Ho detto, oh carino sta roba, pare proprio dance anni 90, e mi è piaciuto, e insomma eccolo qua, Harvest Sky di Ok Lou insieme ad Underscores. Back Podcast. Luponer. Summerspurgo. Caller, please hold. An axe on your doorframe and an axe on your head. Welcome to Playtown. This village, known as Playtown, is a place where time has no meaning. Questi che abbiamo ascoltato adesso invece erano i Nox Pulso, una band come tante altre che però ci tiene, si ritiene New Wave of Industrial Metal. Vabbè, vengono da Manchester, UK, fanno il tipico suono di Manchester, no? Si sente, è evidente. Il brano che abbiamo ascoltato era Plague Town. Plague Town, che dire, grazie Nox Pulso, ci avete fatto divertire. Tra l'altro adesso sto guardando le loro copertine. sono una zozzeria incredibile fatte con l'intelligenza artificiale, proprio brutte e forte. Sì, vabbè, vabbè, però magari la musica è un po' meglio, no? Nox Pulso, adesso, adesso la musica marchigiana. Mentre io stavo a bere da un'altra parte, le Caranna stavano presentando il nuovo album in un salotto, in un bosco probabilmente, dalle parti di Monte Cotaro. Caranna è un duo composto da madre e figlia, cioè sarebbero Fertile per Ombra e Natura, la mamma, e Ivrin, la figlia. Ivrin, non so se si pronuncia Ivrin o in qualche altro modo. Vabbè, comunque sia, questo album è l'ennesimo, ho perso il conto, delle Caranna, si chiama Eretica, fresco fresco, e da quest'album ascoltiamo il brano più complesso, che si chiama Bella Discoteca. Sono 6 minuti, però è una bella discoteca, quindi Caranna. We'll be right back. Lupo Nero Summerspurgo. Sono le tre e penso beh, Marco Rizzo è meno fascio di te. Ed è dura. E penso che coi rosso bruni non ci parlo più, perché mi fa venire male alla testa. Misogini di merda sempre, transfobici sempre, genericamente rincoglioniti. Basta con le cazzate, mi son rotto il cazzo di spiegare che se la Shoah ti triggera non sono cazzi miei, siete dei fasci mancati. Li appenderò tutti uno ad uno. Voglio fare un po' di foibe, sì, ok. Voglio fare un po' di foibe, sì, ok. Voglio fare un po' di spulchi di fasci d'organizzazione. Sono nell'era distruzione core. Lancio le molotov contro i pittini in manifestazione. Oh, tieniti lontano da chi si dice compagno, ma poi fa uscite del cazzo. Tipo gna gna gna gna gna. Il linguaggio inclusivo distrae dai problemi reali. E sono tipo, va molto di moda essere gay. E non era così quando c'era lui. Cioè, aspetta, scusa. No, volevo dire. Io rispetto tutti, ma il gender è una perversione borghese. Oh, ed è tipo la causa di tutti i mali dell'Occidente. Basta con le cazzate, mi son rotto il cazzo. Basta di spiegare che cazzo. Se la Shoah ti triggera non sono cazzi miei, siete dei fasci mancati. Li appenderò tutti uno ad uno. Mi vengo a prendere, stronzi. Voglio fare un po' di foibe, sì, ok. Voglio fare un po' di foibe, sì, ok. Voglio fare un po' di spulchi di fasci d'organizzazione. Sono nell'era distruzione core. Porco faccio Dio, le ammazzo tutti quanti in manifestazione. Oh, avete rotto il cazzo, avete rotto proprio il cazzo. Altra creatura misteriosa, questo Young Paninaru, che ha fatto un album, una raccolta di canzoni chiamata Canzoni per compagno dissidenti. Questo brano che abbiamo ascoltato che era un po' di foibe, così per riportare un po' di foibe nella nostra giornata e in questa calda stagione agustana. Per rimanere più o meno in tema, parliamo di Italo Disco, o meglio parliamo di DJ Balli, che da Bologna, terrorista sonico dal secolo scorso, si è messo in combutta con un tale Sindaco, il creatore, sedicente creatore del Tropical Electro. Hanno realizzato questo EP di Mutant Goth Italo. Vabbè, ci sono simboli satanici. Che vi devo dire? È una scena italo disco un po' goth, però in realtà non è tutto questo grande sforzo, perché la new wave, la dark wave del momento è molto italo disco e viceversa, quindi facile, non l'ha fatta facile. Comunque sia, se sono questi due, il Sindaco e DJ Balli, si sono associati con una vocalist nota come Ossidiana e hanno realizzato questo EP. Da questo EP ascoltiamo il brano d'apertura, che è Pizzeria Brigata Rossa. Ok, Pizzeria Brigata Rossa, Sindaco, DJ Balli e featuring Ossidiana. Lupo Nair Summer Spurgo. Per qualche oscuro motivo il black death metal dei Millingen, dei svedesi Millingen, viene definito anche melodico. Boh, mi sono perso qualcosa, probabilmente. Il brano che abbiamo ascoltato era Mörkrets Spiral, dall'EP Svartzin, sì, dall'EP Svartsin, uscito a marzo, pensa qua. Milingen. Ora una roba che non c'entra proprio niente, molto rilassato, un chitarrista francese che ha scoperto la slide guitar, ci si è appollaiato sopra da quando era picciò, che dire, ogni tanto fa un disco, me li manda a continuazione, e quindi ascoltiamone un pezzetto. Questo è un pezzo un po' più introspettivo, Dark Slide, si intitola dell'album Burning Heart di Gary Oslide. Dark Slide, Gary Oslide, è facile. bene, con questo rutto arriviamo al termine di questa puntata di Luponer Summerspurgo, nono episodio della seconda stagione. Niente, vi diciamo che abbiamo ascoltato il Lesser Care, è un duo di dream pop, shoegaze, post-punk da El Paso, Texas, che hanno fatto un album veramente bello chiamato Heel Turn, uscito a marzo dell'anno scorso, ma per noi, che con tutti i dazi che ci sono dagli Stati Uniti, è ancora fresco. Il brano che abbiamo ascoltato era Streetwear, e ora per salutarci a giovedì prossimo o giù di lì, perché starò un po' in vacanzetta, non so esattamente quando ci beccheremo, ma ci beccheremo nella prossima settimana, arriverà una puntata probabilmente in ritardo, ma arriverà. Vi lasciamo con DJ Gigola. Gigola, che è una creatura che risponde al nome di Paulina Schulz, nonostante il nome è tedesca, nonostante la batteria sia completamente ricaricata, è tedesca. DJ Gigola, dal suo album Big Room Sensual, ascoltiamo il brano Siente il ritmo. DJ Gigola, e noi a settimana prossima, prima o poi, con Luponer Summer Spurgo. Siente el ritmo y mueve tu cuerpo. Siente el ritmo. Siente el ritmo. Lupo Nero, Summerspurgo.